Storie, storielle, storiacce di Raffaella Calandra. Stefania Ariosto, è giunto forse il momento di poter dire che il Teste Omega si prepara ad andare in pensione? Per fortuna, non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi, sì, perché è stato un percorso molto difficoltoso, molto doloroso e non so che tipo di giovamento abbia dato a questa società, perché i fatti di corruzione ancora insistono, sono ai nostri giorni. Luglio 1995, è allora che Stefania Ariosto diviene ufficialmente il Teste Omega, con il primo interrogatorio davanti agli inquirenti milanesi, in cui denuncia episodi di corruzione che coinvolgevano avvocati, magistrati, finanzieri, di cui era stata testimone. In sostanza, sarebbero state decise così, a suon di mazzette, sentenze di processi civili con in ballo interessi economici enormi. Quasi un anno dopo, il 12 marzo del 1996, vengono arrestati il capo dei GIP di Roma, Renato Squillante, e l'avvocato Attilio Pacifico. Inizia allora l'inchiesta Toghe Sporche, incanalata in tre differenti filoni per altrettanti episodi di corruzione: l'assegnazione del lodo Mondadori, l'Imisir e il caso SME. Dopo 11 anni, solo per l'Imisir è stata raggiunta una sentenza definitiva. 6 anni a Cesare Previti, condannati anche Vittorio Metta, Attilio Pacifico, Giovanni Acampora. Assoluzioni invece per Squillante e per gli eredi di Nino Rovelli. Colpi di ricusazioni, ricorsi, eccezioni e una coda infinita di polemiche, 11 anni è durato il processo Imisir ed oggi, di fatto, di tutto ciò che scaturì dalle parole del Teste Omega, delle inchieste sulle toghe sporche, questo è l'unico capitolo davvero chiuso per la giustizia, l'unico insieme alla causa per diffamazione mossa da Stefania Ariosto a Cesare Previti dopo un'intervista del 97. È un teste fabbricato in laboratorio, disse l'ex ministro di Forza Italia, ma quando anche questo rivolo dell'affare Toghe Sporche stava per concludersi, la difesa Previti ha proposto un accordo economico, l'Ariosto ha accettato e in cambio di 25.000 euro ha ritirato la querela che come una spada di Damocle pendeva sull'imputato insieme col rischio di nuovi arresti. Purtroppo io sono stata dileggiata, attaccata da una parte dei mezzi di comunicazione, quindi con codici di significazione ben precisi, proprio di attaccare il teste, una diffamazione d'ampio spettro, aggravata. Però mi sono difesa, Raffaella, mi sono difesa con tutte le mie forze e finalmente sono anche diventata forse più buona, perché alla fine veramente ho accettato subito di rimettere la querela contro Cesare Previti, perché ormai credo che la lezione l'abbia imparata. Ecco, quindi è stata una iniziativa partita dalla difesa Previti. Esattamente, sì, esattamente. Quella di dall'avvocato San Marco, che pure mi guardava sempre molto torvamente, mi hanno attaccata durante l'incidente probatorio e mutuando il loro sapere giuridico con la forza dell'informazione, lei può ben immaginare che tipo di miscela esplosiva è avvenuta, proprio il spregio alla mia persona soprattutto, ma soprattutto al teste. Ecco, cioè, lei perché ha deciso di accettare questa proposta della difesa di Previti? In primo luogo perché alla fine il passato bisogna attraversarlo, non calpestarlo sicuramente, e quindi credo che il rispetto della persona umana sia anche questo, una persona che ormai ha una certa età, che ha vissuto anche lui dolorosamente quello che ha patito e che ha pagato, e se paga va bene, basta così, non bisogna poi eccedere, ecco, l'eccesso non è poi una maniera per essere felici, quindi ho accettato di buon grado e penso che questo gli abbia giovato, e d'altronde ci sono altre cause in corso, quindi penso che farà la stessa cosa, perché alla fine io sono garantista come soggetto, lui ha pagato abbastanza a mio avviso, è stato spogliato di ogni potere e dovrebbe anche avere il coraggio di dimettersi dalla Camera, cosa che spero faccia autonomamente, come ha fatto Farina dall'Ordine dei giornalisti. Ecco, quindi sì. Mi sembra di capire che lei abbia intenzione di seguire questa linea anche per altre cause pendenti? Esattamente sì. Esattamente sì, perché alla fine c'è un momento di pacificazione veramente che deve arrivare, tendo nel senso giuridico, certo non ci sarà altro tipo di pacificazione personale, questo no. Sono aperti alcuni procedimenti ancora contro il giornale, il settimanale Panorama, contro gli annunci. E ha avuto simili offerte anche da queste altre parti in causa? Non ancora, ma io proseguo imperterrita nelle mie fasi processuali senza battere ciglio. La stessa cosa ho fatto anche per l'onorevole Sgarbi, voglio dire, lui mi aveva, come posso dire, mi ha fatto oggetto di sua virtù, tra virgolette, e ogni giorno su Sgarbi Quotidiani, però alla fine rischiava veramente anche egli di andare in prigione, quindi ho rimesso le querele anche a lui. La giustizia è lunga, ma arriva e poi lascia dei segni veramente incontrovertibili. Vorrebbe non parlare più di quegli anni Stefania Ariosto, spera di chiudere al più presto, come con Previti, anche tutte le altre cause per diffamazione. Vorrebbe insomma davvero andare in pensione come Testi Omega, anche se poi in realtà 12 anni dopo non tutto è ancora chiuso. Il bonifico orologio si snoda intorno a un versamento di $430,000 effettuato nel 1991 a favore dell'ex capo dei GIP romani, Renato Squillante. Il processo SME. L'accusa? Corruzione, per impedire che il controllo del colosso alimentare andasse al gruppo CIR di Carlo De Benedetti. Negli anni, il procedimento sfocia in due distinti tronconi. Da una parte, Cesare Previti e gli altri imputati. Dall'altra, l'ex premier Silvio Berlusconi. Nel primo processo, dopo le condanne in primo e secondo grado per Pacifico, Previti e Squillante, la Cassazione, nel novembre 2006, ha annullato tutto, stabilendo che la competenza era di Perugia, perché coinvolte toghe romane. Per Berlusconi, invece, dopo una assoluzione e una prescrizione in primo grado, ci sarà l'appello per decisione della Suprema Corte, che ha annullato l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Milano aveva dichiarato inammissibili i ricorsi contro la prescrizione della Procura. Quanto al lodo Mondadori, il 23 febbraio scorso Cesare Previti è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione al termine del secondo processo d'appello. Mentre la giustizia avanza con i suoi tempi lenti, è la sfiducia e la tristezza l'eredità principale ricevuta dal Teste Omega da questi 12 anni. Mi resta una gravissima doglianza, quella proprio che la tutela del testimone nel processo penale. Ecco, non c'è. Il testimone dovrebbe essere maggiormente tutelato. Ma di tutti questi anni di inchieste e di processi e del numero infinito anche di udienze, di deposizioni sue, volendo trarre un bilancio conclusivo, considerando che ora appunto entrambi i procedimenti praticamente volgono al termine o sono già anche chiusi, che cosa le resta? Questa è una domanda molto sulla quale devo riflettere forse molto ancora, perché guardi, io ho avuto danni da mass media, danni, sono state espropriate soggettivamente i miei diritti personalissimi, indisponibili, e certo le dico che io voglio attraversarlo questo passato, ma non lo dimenticherò mai, perché è stato un percorso di grandissima sofferenza. In più poi si è aggiunta anche una malattia, sono stata anche ammalata gravemente, sono certo. Stata, mi sono sentita male in tribunale, sono stata intubata, sono stata 25 giorni in rianimazione, cioè ho avuto delle ripercussioni fisiche, diciamo. Ecco, l'unico dato positivo che posso dire del fatto che ho conseguito un'altra laurea, quella in giurisprudenza, che ho torto collo, me la sono presa per capire cosa mi stesse succedendo. Non posso dire che sono contenta di quello che ho fatto, perché io per esempio ho mio figlio, ho un nipote, non lo consiglierei di fare questo. Purtroppo devo fare queste affermazioni, capisco che siano anche molto forti, però non lo farei, perché guardi, io sono sopravvissuta, non so per quale strano disegno divino, se c'è stato, vi assicuro che sono un percorso di un dolore profondo. I momenti delle sentenze, quindi la chiusura definitiva dell'IMISIR e invece adesso lo spostamento a Perugia della vicenda SME, ora poi anche la condanna per il lodo Mondadori, ecco, volta per volta Stefania Ariosto come ha vissuto i momenti delle sentenze, come una conferma della giustezza di quanto lei fece nel luglio del 95? Di quanto ho dichiarato la dottoressa Bocassini, ho sempre avuto piena contezza e piena convinzione, perché sono state certo. Mie dichiarazioni. Certamente queste poi sono state confutate, sono passate attraverso vari procedimenti, ma non procedimenti normali, che un certo normale, cioè un primo, un secondo, un terzo grado. Io sono arrivata a subire e dover richiedere conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, quindi confrontarmi con la Corte Costituzionale, con la Camera dei Deputati, percorsi veramente, veramente defatiganti e che soltanto la mia volontà ferrea ha voluto, unitamente alla buona fede dell'ultimo degli miei avvocati difensori, l'avvocato Aldo Bissi, hanno potuto portare a termine e seguire un certo percorso, diciamo, processuale, che ha portato poi anche le mie questioni, unitamente coniugate con quelle di Smello, da Mondadori e d'altro, ad una fine, perché ci si arrende, sai. Io ho presentato 400 denunce per il reato di diffamazione per il mezzo della stampa e ognuno di questi procedimenti poi ha creato il primo, il secondo, il terzo grado, i conflitti di attribuzioni presso la Corte Costituzionale, le questioni di legittimità e quindi le sospensioni, e poi dopo il terzo grado ancora i procedimenti ricominciare con i civili per il risarcimento dei danni. Quindi mi sono impegnata con una volontà ferrea a dire devo andare fino in fondo. Alla fine di tutto, Previti è stato alcuni giorni in carcere, diverso invece l'iter processuale che ha avuto l'altro grande coimputato, che è Silvio Berlusconi. Io non lo stimo il signor Berlusconi, è rocambolesco, è come un funambolo, è come una persona che sfugge, come una saponetta che sfugge e fa delle capriole che non avrebbe bisogno, credo, di fare dopo un'esperienza imprenditoriale così lunga e così asseverata. E sono un po' sulla stessa linea di Veronica Berlusconi. In fin dei conti io sono convinta che Veronica non stimi suo marito, e per questo ho la lettera aperta su Repubblica. Al contrario, ella è persona di profondissimo spessore morale ed altro, perché ha voluto acquisire altro vivendo appunto un uomo così tra virgolette importante. Io non lo stimo, signor Berlusconi. E quindi, rispetto anche all'esito delle vicende processuali, lei si aspettava che finisse così? Non l'ho mai preso in considerazione, soprattutto dopo le sue ultime dichiarazioni spontanee, che ha attaccato la mia mamma. C'è una parte dell'Italia che l'ha già condannato, una parte dell'Italia che l'ha condannato, e quindi una condanna superiore a quella che poteva avere nelle aule giudiziarie.